Mario Molinari, un volontario di Music for Peace, che è una piccola associazione genovese che si occupa di raccogliere in prima persona gli aiuti dalla gente e di recapitarli direttamente a destinazione nelle mani delle famiglie bisognose. In questo caso la missione è Gaza e da ormai 15 giorni, anzi 16 a dire il vero, stavamo vivendo una vera e propria odissea, perché una volta arrivati al valico di Rafah sul confine Egitto-Israele, due container di aiuti medicali sono stati fatti passare, mentre gli altri due container, che sono 36 tonnellate di cibo accolto di primissima qualità, sono stati, dopo 10 giorni di tarantella burocratica veramente surreale e di impegni non mantenuti, rimbalzati dal valico di Rafah e dirottati su El Arish, che è la città più vicina, dove stiamo precipitando in una spirale burocratica, che vuol dire anche spese, che vuol dire anche voci di costo che ci vengono richieste, per transitare da un altro valico, che è quello di Elouga, che è sul confine Egitto-Israele. Quindi dovremmo passare da lì, pallettizzare le merci su cartoni di un metro per un metro per un metro, varcare il valico di Elouga, attraversare il territorio israeliano per entrare a Gaza. Tutto questo ha ovviamente dei costi aggiuntivi non indifferenti, che ci vengono richiesti da varie società collegate anche al World Food Program, e troviamo che sia semplicemente scandaloso che ci siano tasse o gabelle sugli aiuti, oltre all'infinita tarantella burocratica, ai soldi che stiamo spendendo e al tempo perso, che davvero sta diventando una voce di costo veramente consistente.